This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Siete in diretta, siete a This Is Not an Exit. Vabbè, è partita la puntata di qualche settimana fa in sottofondo, siamo un po' in ritardo, ma ci scuserete. Sono tornato anch'io, sono Babe, in compagnia di Osari Michele e Alessio in console, e poi abbiamo il nostro amico Iluvatar, dico bene? Sì, certo. Buongiorno Iluvatar. Buongiorno. Una persona che probabilmente non sarà beatificata, però parlerà di cose magari attinenti alla beatificazione. Qualche settimana fa qua a This Is Not an Exit, ricordo che siete su Radio Città del Capo, abbiamo parlato di un fenomeno tipicamente norvegese, black metal, un fenomeno che però dal nostro punto di vista richiedeva un'aggiunta, una seconda parte. Sì, beh, gli argomenti da trattare infatti sono molti, e quindi ora, diciamo, cercando di approfondire gli aspetti, diciamo, trattati la volta scorsa, parleremo appunto delle tematiche del black metal, cioè ciò che contraddistingue e che va oltre la semplice musica, appunto, di questo fenomeno. Fenomeni che, come abbiamo già detto, sono andati ben oltre le iniziali ideali nichilisti dei primi ragazzi che alla fine degli anni 80 cominciavano a suonare questo genere, e poi si è molto ramificato, e ramificandosi con varie personalità ha assorbito varie tematiche, ma di questo parleremo dopo magari un primo brano. Esattamente. This is... Wow. This Is Not an Exit, siete sempre dal vivo qua a Radio Città del Capo sui 96.25, 94.7, Città del Capo Radio Metropolitana, quindi siete in ascolto a Bologna oppure in streaming in giro per l'etere. Dicevamo, black metal, un fenomeno che è fiorito in una landa molto particolare. La Norvegia è un paese ricchissimo, magari un po' freddo, però ricchissimo. Perché? Perché è pieno di petrolio, offshore, lungo le coste norvegesi. Da parecchi anni, da un centinaio d'anni, 80-90 anni fa, fu scoperto dalla Standard Oil, la Esso, dei Rockefeller, insomma, già imponenti giacimenti petroliferi che tuttora spingono fuori tonnellate e tonnellate di petrolio e garantiscono un elevatissimo tenore di vita, e ne abbiamo già accennato qualche settimana fa, al cittadino medio norvegese. Se siete mai stati in quelle lande e avete mai provato ad ordinare una birra alla spina, vi sarete accorti che non è esattamente economicissima. Esatto, infatti costa circa 9 euro. Beh, adesso... E uno si chiede, ma perché poi tutto questo malessere, tutto questo... Hanno addirittura il Rockefeller Theater, cioè hanno... sono invasi di quattrini, insomma, hanno... fai un buco per terra, ti esce il petrolio, vendi. Non è detto che quello che sentiamo, per esempio anche ora in sottofondo, sia sinonimo di malessere, anzi per me è esattamente il contrario. Diciamo che questo ha permesso serenità, serenità, cioè possibilità di pensare oltre alla quotidianità, per cui per alcune persone questo significa noia, per altre persone significa appunto creare qualcosa. Lì si è creato qualcosa di sicuramente, secondo il mio personale punto di vista, molto molto bello. Una possibilità. Prima infatti abbiamo sentito un pezzo di Burzum del primo album, si chiamava War. Burzum o Varg Vikernes, unico diciamo musicista che compone il suo gruppo. Burzum tra l'altro in linguaggio scuro significa oscurità. Diciamo è una delle persone più, dei personaggi più significativi della scena black metal norvegese per una serie di motivi. Anche uno dei più famosi. È anche uno dei più famosi per una serie di motivi legati a fatti di cronaca che sono, diciamo, negativi, cioè tipo l'omicidio di Euronymous e l'incendio dato a varie chiese. Fenomeno che è poi proseguito nel corso del tempo anche dopo il suo arresto, per cui in Norvegia in quegli anni sono bruciate 52 chiese e hanno profanato 15.000 tombe all'incirca. Ricordiamo che Euronymous era il suo compagno di band nei Mayhem. Esatto, facenti entrambi parte di una associazione culturale chiamata Black Inner Cycle. Questo, quello che sentiamo invece in sottofondo è secondo me importante per fare sentire un altro punto di vista del fenomeno del black, che passa dal satanismo, diciamo, considerato in termini estremamente semplicistici e anche quasi infantili, ad un qualcosa di molto diverso, che si avvicina appunto non più a, cioè è l'anticristianità, ma intesa non in termini tipo l'avversario che hai Satana, no. Cristiano, sei venuto nella mia terra, nella quale erano presenti templi pagani che erano stati istituiti per venerare altre divinità pagane della terra di Norvegia, delle terre del nord Europa, le hai distrutte e hai costruito delle chiese. Io gli do fuoco per quello alle tue chiese, e quello che io voglio rappresentare in quanto persona che non crede nei tuoi ideali, voglio rappresentare un qualcosa che va oltre appunto l'essere contro, ma rappresento ciò che è la mia concezione di terra, della mia terra. Quindi si va dall'odalismo al paganesimo, per cui quello che sentiamo in sottofondo è un pezzo del primo album degli In The Woods, che è un gruppo di Kristiansand, una città vicina ad Oslo, ed è un pezzo che secondo me è la prima espressione dal mio punto di vista bellissima del pagan black metal. Mountains of raging thunder. Shapes that I long for, withering visions leading. Beh, anche oggi ho imparato una parola nuova, odalismo. Cosa vuol dire? Ah, significa molto semplicemente retaggio culturale. Voglio dire, io musicista, la mia musica non esprime solamente note, ma ciò che dico e come lo dico deve all'ascoltatore trasmettere un messaggio che viene da molti secoli prima. Addirittura? Sì. Cioè, devo essere in grado di farti capire che cosa ci siamo persi. Quindi il progresso non è ben visto. Esatto, esatto. È visto come una devoluzione. Sì, è un po' come, diciamo, un famosissimo scrittore, da cui appunto il nome del gruppo della persona che abbiamo ascoltato prima, cioè Varg Vikernes, quindi Burzum. La persona che si è inventata quella lingua, quindi il linguaggio oscuro, per cui Burzum significa appunto oscurità, è John Ronald Reuel Tolkien, e Tolkien era il primo assolutamente ad odiare lo sviluppo industriale. Cioè, lui era una persona estremamente naturalista, tra virgolette, cioè legata al passato, legata ai tempi in cui si poteva stare tranquilli, in cui c'erano delle cadenze durante la giornata, dei rituali quasi, che erano fissi, molto, molto dilazionati nel tempo, per cui c'era tempo per fare tante cose, per fare la prima colazione, la seconda colazione, la terza colazione, il pranzo, la merenda, la seconda merenda, il tè, la cena. Lui era un hobbit, fondamentalmente. Ha creato gli hobbit perché lui era un hobbit. A base di zucchero, quindi. Sì, non era diabetico. E soprattutto aveva il tempo, sì, per poter fare tutte queste colazioni. E poi bere un sacco di birra, perché comunque gli Inklings era il club che aveva fondato, e sicuramente, sì, diciamo che faceva di tutto per non stare con sua moglie, anche se l'amava tantissimo. Beh, questo è un fenomeno che non riguardava solo Tolkien, probabilmente. Esatto. Quindi una specie di ritorno a un passato ideale. Sì, diciamo che era meglio quando si stava peggio, che poi invece in realtà forse si stava veramente molto meglio. Forse. Sì. 16:25 minuti primi, siete sempre in diretta su Radio Città del Capo, anche questo sabato in compagnia di This Is Not an Exit e anche questo sabato in compagnia di Iluvatar, che ci sta raccontando un po' le tematiche che si sono ramificate negli anni dentro il movimento norvegese black metal, che poi non era solo norvegese, perché siamo partiti qualche settimana fa con la prima puntata su black metal, partendo da inizi 88-89, i primi dischi dei Mayhem. Poi però altri gruppi si sono accodati e poi il fenomeno da casalingo, registrazione a bassa fedeltà volutamente, è diventato un fenomeno europeo, quantomeno se non mondiale. Esattamente. Adesso per non ripetermi, non sto a sottolineare ciò che avevamo già detto e mi limito semplicemente a dire che appunto abbiamo trattato come... diciamo come punto cardine della puntata le tematiche del black, quindi parlando di paganesimo e di odalismo, l'ultimo gruppo che abbiamo sentito erano gli Enslaved e il pezzo era Loke dall'album Frost. Loke o Loki è una divinità norvegese ed è quella che diciamo... Non è il fratello di Thor. Beh oddio, adesso... Sì, diciamo che le divinità del pantheon norreno sono tutte imparentate, no? E poi soprattutto hanno la caratteristica di essere mortali, quindi possono morire. Loki è ciò che un cristiano occidentale associerebbe a qualcosa di malvagio, in quanto rappresenta un qualcosa di negativo, in realtà, perché noi associamo al caos, al disordine, un aggettivo negativo, dispregiativo quasi, mentre è fondamentale il caos per avere l'ordine, cioè la rappresentazione di questo stato, della materia, se vogliamo parlarla in termini fisici volendo, è fondamentale per riuscire ad avere tutto il resto, cioè per avere un oscillatore armonico ci deve essere un qualcosa che si muove casualmente, cioè la materia deve essere sollecitata. Sì, sì, un oscillatore armonico può anche essere una corda di una chitarra, ma dentro la corda ci sono un sacco di atomi, insomma, di altre molecole che rendono possibile che questa corda faccia un suono, un tono e tante altre armoniche, sì, appunto, esatto. Oscilli armonicamente. Quello... Giusto per spiegarlo un po' meglio, toh. Quello che volevo... Ci provo. Va benissimo. Quello che volevo dire era semplicemente che dare diciamo la faccia e il volto di una divinità ad un fenomeno come può essere appunto l'entropia, cioè il caos, il disordine, è un qualcosa di estremamente particolare, di particolarmente bello dal mio punto di vista. Rendere in musica non è banale. Renderlo in musica non è banale e si cerca di farlo in maniera quasi mitologica. E infatti il pezzo che abbiamo sentito, il finale, era la risata di Loki. Sembrava quella di Joker, di Batman. Sì, sì, sì. Molto, molto bello, molto particolare. Quindi, cioè, tra, appunto, sviluppando le varie tematiche, molti gruppi hanno trattato questi argomenti in modi diversi. Diciamo che oltre alle tematiche del paganesimo e di ciò che poi in alcuni casi viene chiamato Viking Metal, si ha all'interno del black metal anche altri temi come la misantropia e il nichilismo. La misantropia e il nichilismo che sono diciamo visioni da parte di alcuni musicisti black negative per esprimere i loro disagi esistenziali, per esempio solitudine, cioè tutto ciò che è legato alla visione negativa della realtà. Tutto questo si collega appunto al fatto che io sto male perché adesso mi avete distrutto ciò che mi faceva stare bene, no? E quindi è sempre tutto abbastanza collegato. Per cui sì, per finire questa piccola carrellata e per passare magari ad argomenti che trattano dal punto di vista tematico qualcosa che va al di fuori del satanismo, del paganesimo, del viking, dell'odalismo e della misantropia, ci fermiamo qui, diciamo. Dopo tanti altri gruppi hanno trattato altri argomenti che vanno a sfociare quasi in ambito politico, per cui niente, insomma, si possono vedere e ascoltare musiche che all'interno dello stesso genere suonano in un modo diverso. This is not an exit, siete dal vivo, siamo qua a parlare di black metal, magari ad alimentare o a sfatare miti, tipo che dal paganesimo al neonazismo il passo sia breve. Io vorrei sfatare un altro mito, ma contrariamente da quel che si può desumere da un ascolto superficiale, questi gruppi non fanno solo rumore, c'è anche un senso della melodia ben preciso, secondo me. Certamente. Lo abbiamo sentito anche ora nel pezzo, appunto l'ultimo che è stato mandato in onda, che erano i Gorgoroth, primo album Pentagram, e si sentiva chiaramente una base melodica che è proprio la caratteristica principale del black, la chitarra. Cioè la chitarra e le partiture di chitarra nella maggior parte dei casi, soprattutto in questi anni, che diciamo è il periodo che stiamo esaminando, appunto fine anni 80, primi anni 90, sono partiture estremamente semplici, diciamo suonabili tra virgolette da chiunque, perché sono quattro note in croce, però sono quattro note in croce messe molto molto bene. Un'altra espressione abbastanza semplificativa di tutto ciò mi sembra siano gli Emperor, anche loro sono stati dei maestri nel creare melodie perfette dal punto di vista d'orecchio, insomma. Esatto, li sentiremo infatti. E il pezzo che sentiremo tra non molto sarà I Am The Black Withers, che è nel primo album, e diciamo è un pezzo che esplicita abbastanza chiaramente quello che tu hai appena detto. Ascoltiamolo. Ora abbiamo sentito i Satyricon, anche se parlavamo di Emperor prima, cioè non era voluto, comunque diciamo che l'album che abbiamo sentito, sempre collegandoci alla tematica dell'odalismo e dei tempi passati, questo è Dark Medieval Times, il primo album dei Satyricon, per cui c'è un oscuro medioevo, l'esaltazione dell'epoca che si ritiene la più oscura dell'Europa e del mondo. Quindi un pezzo che diciamo oscilla tra melodie con strumenti classici medievali come il flauto a parti tirate con chitarre elettriche e batteria e voci in screaming. Quindi dal mio punto di vista l'esemplificazione di ciò che era il black. Tutto molto gotico. Tutto molto oscuro. Esattamente. E, diciamo, andando avanti con il ragionamento, appunto arriviamo a parlare di altre tematiche che sono assolutamente, diciamo, forse connesse da una filologia, però dal punto di vista di quello che normalmente si crede, forse no, nel senso alcuni gruppi hanno iniziato a suonare facendo quello che poi è stato chiamato ed etichettato National Socialistic Black Metal, tematiche politiche, ispirazioni neonaziste che fanno appunto del razzismo, dell'antisemitismo, della xenofobia, dell'omofobia i loro temi principali. Gruppi importanti come appunto gli Absurd in Germania, come i Graveland in Polonia, i Nocturnal Mortum in Ucraina, quindi in paesi diversi anche dalla Norvegia. Quello che abbiamo visto, diciamo, è che nel corso del tempo le band che hanno trattato questi temi sono state criticate appunto per apologia nazista e antisemita, nonostante diciamo predominanti riferimenti al satanismo. Questo è stato, non so, per dire un esempio famoso di band che ha fatto questo al di fuori del black, perché sono una band thrash metal molto famosa a livello mondiale, sono americani, sono gli Slayer, sono stati accusati di essere neonazisti, loro hanno sempre dichiarato che erano interessati agli argomenti ma non erano assolutamente da considerare tali. Io ho sempre pensato che l'avessero sfruttato come abile fenomeno di marketing. Certamente, ma infatti è questo. Diciamo che l'importante era, allora, a parte gli Slayer, cioè l'importante nel black era andare contro. Quindi se il pensiero politico predominante è fondamentalmente di sinistra, io faccio il contrario. E in Norvegia tipicamente in quegli anni probabilmente il partito predominante, e lo è stato per decenni, era quello socialdemocratico. La famosa, esatto, socialdemocrazia di stampo nordico, se ne parla tuttora. Esattamente. Ed è tuttora portata come esempio di buon governo, bla bla bla. Proprio così. Mentre, visto che parlavamo appunto degli Emperor, ora sentiamo da Wrath of the Tide, sentiamo I Am the Black Wizard dal primo album. We'll be right back. sempre This Is Not An Exit, sempre Radio Città del Capo, 16:46 minuti primi, e sempre qui a parlare di tematiche che normalmente direi da queste frequenze non vengono ampiamente trattate. Esattamente. Abbiamo sentito gli Emperor, come dicevo, I Am The Black Wizards dal primo album, e stavamo discutendo appunto di tematiche che sfociano nella politica fondamentalmente. In quel periodo, appunto, per incendi... In che anni siamo? Ah, siamo nei primi anni 90. Siamo 90-91. Diciamo, se vogliamo trattare dal 91 in poi, 91-92-93, subito post l'omicidio da parte di Varg Vikernes Burzum di Euronymous, dei Mayhem. Appunto in quel periodo Varg fu arrestato per questo omicidio, e poi gli furono attribuiti anche come reati appunto l'incendio a, mi sembra, ufficiali a due chiese per quanto riguardava la sua condanna. In quel periodo appunto lui in carcere scrisse un libro che era ideologicamente simile al Mein Kampf di Adolf Hitler, e il nome di questo libro era il Vargsmal, e dove lui praticamente enuncia le sue teorie razziste e sociologiche basate sulla una visione pangermanica ariana dell'Europa. Non difettava certo di personalità. No, diciamo di no. Era ed è ancora un personaggio veramente notevole. Diciamo che non solamente lui, per fare una sorta di panoramica a livello territoriale, sempre in quegli anni uscì un album dei Darktron che fece scalpore, cioè un album con varie collaborazioni, fece scalpore per ciò che venne scritto all'interno del booklet di quell'album, era proprio sulla confezione. L'album era Transylvanian Anger, e loro, cioè i Darktron, appunto Fenriz e Notturno Culto, definirono provocatoriamente ariana la propria musica, e sul retrocopertina del disco scrissero Norsk Arisk Black Metal, black metal norvegese ariano. Per questo furono criticati, no? Infatti loro dissero che se qualcuno oserà criticare questo disco verrà giudicato per il suo comportamento da ebreo. Molto forte. Più di così. We'll be right back. Adesso abbiamo sentito i Take, o Toke, in norvegese antico significa fog, significa nebbia. Il cantante dei Take è anche lui un grande personaggio, tra l'altro è venuto a Bologna anche pochi giorni fa, si chiama Oest. Oest è famoso per quanto mi riguarda, famoso perché è molto bravo, però per altri motivi anche uno diventa famoso, no? Come sempre in questi ambiti, e spesso. Lui, diciamo, è ricordato per un concerto in particolare che si è tenuto a Essen in Germania ed era come gruppo spalla dei Creator, famosa band thrash metal teutonica della triade Sodom, Destruction, Creator, e i Creator sono proprio originari di Essen. Appena finì di suonare il gruppo precedente, toccava i Take e si aspettavano l'ingresso trionfale di Oest, il quale entrò sul palco a petto nudo con una svastica disegnata sul petto. Beh, gran mossa in Germania. A questo punto il pubblico iniziò ad insultarlo, a sputargli, a lanciargli bottiglie di birra e robe varie, quindi sospesero il concerto. Come paraculata notevole, i Creator, con Mille Petrozza, il fondatore della band, disse che loro non volevano sapere assolutamente nulla di tutto questo, non avrebbero mai più suonato con i Take e si vergognavano di ciò che avevano visto, no? Mentre Oest molto semplicemente disse che i gestori del locale e anche il pubblico che aveva assistito al concerto per lui erano apostrofati come Untermenschen, sottouomini, come popoli inferiori, sì, in quanto non avevano capito assolutamente nulla di quello che lui voleva dire. Oest ha spiegato che lui ha portato il simbolo non come nazista, ma bensì come icona del male assoluto, e staccandosi quindi dall'apologia nazionalsocialistica, lui si è presentato sul palco dicendo: io sono il male. E nessuno ha capito, quindi siete subuomini. All'interno di ciò che riguarda tutta la parte sociopolitica, con l'utilizzo di nomi all'interno di varie band, per cui posso citare anche gli Zyklon, di Samoz, degli Emperor. Lo Zyklon B era il gas usato da, esatto, Auschwitz e Birkenau per, esatto, uccidere e sterminare i prigionieri. Lui rispose che Zyklon era il modo per dire ciclone, e niente, passiamo molto semplicemente ora, diciamo, non cambiando completamente argomento, sentendo l'ultimo pezzo che volevo presentarvi in questa breve puntata, di Bartholdt Eitun con i Thorns, per visionare un altro aspetto del black che sembra non centrare molto, ma che in realtà è comunque molto attinente, che è l'industrial black, e il pezzo che sentiamo è Aeri Descent. E con questo chiudiamo, salutiamo, ringraziamo Iluvatar e Alessio in regia. A risentirci sabato prossimo, sempre alle 16, con This Is Not An Exit. Buon ascolto e buon proseguimento.